Perfetto Giorno di Simone Spezia. Sfida con l'Europa su migranti e fiscal compact. Minniti prepara un nuovo piano. Renzi vuole deficit al 2,9% per 5 anni. Sul DDL per punire chi vende gadget fascisti e fa propaganda in rete è scontro. 5 Stelle contrari parlano di legge liberticida. A Chioggia intanto il prefetto ordina la rimozione dei cartelli inneggianti al Duce. Londra, fiamme a Camden Market, molti danni e nessun ferito, evacuato anche il Parlamento per un allarme incendio, poi rientrato. Le casalinghe lavorano più degli occupati, 49 ore a settimana, riferisce l'Istat, i lavori di casa pesano ancora troppo solo sulle donne. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e come siamo come sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24 in diretta video, ci potete sentire anche là. Si apre dunque questa settimana che è l'ultima settimana di questa stagione per Effetto Giorno, torneremo poi a settembre. In apertura ci occupiamo dunque di politica, mentre la tensione tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico resta alta, soprattutto sul DDL presentato da Emanuele Fiano e che prevede delle punizioni più severe per chi vende gadget fascisti e chi fa propaganda fascista in rete, con il Movimento 5 Stelle che ha presentato la sua relazione in commissione parlando di una legge liberticida, e appunto il livello dello scontro si sta alzando. Ha parlato pochi istanti fa il segretario del Partito Democratico Renzi, dicendo che liberticida è il fascismo e non una legge di questo tipo. La tensione resta alta soprattutto con l'Europa e soprattutto sui temi appunto economici e del fiscal compact, dopo l'ipotesi lanciata da Renzi nel suo libro di avere per 5 anni il deficit al 2,9% per avere spazi per gli investimenti. Oggi ci tornano altri due ministri su questo tema, ci torna Calenda, ci torna Del Rio, il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, Matteo Renzi, come dicevi tu, rottama il fiscal compact, ovvero l'accordo europeo che prevede il pareggio di bilancio. Secondo il segretario PD bisogna buttare giù il debito e ritornare a Maastricht, ovvero un deficit sotto il 3%. Rottamiamo il fiscal compact e tiriamo giù le tasse a famiglie con i figli, ad artigiani e piccoli imprenditori, a chi insomma non ce la fa. Ma sulla proposta il PD si divide. Il ministro Del Rio in un'intervista alla stampa dà ragione al segretario: firmare il fiscal compact e il pareggio di bilancio è incostituzionale, è stato un grave errore. Di diverso avviso invece il collega di governo Carlo Calenda, per il quale aumentare il deficit è un rischio da prendere solo se si spinge su investimenti, privatizzazioni e riforme. Protesta anche la Lega: è surreale che oggi Renzi venga a dire di abolire il fiscal compact, che questo trattato fu votato da tutti tranne che dal Carroccio, sottolineano. Critico anche Renato Brunetta: non basta porre il veto su fiscal compact, bisogna eliminare tutti gli accordi successivi voluti dalla Germania, che hanno irrigidito il sistema e scavato un fossato tra i paesi del nord e del sud Europa. Te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Come si diceva, l'altro fronte di scontro con l'Europa, o quantomeno l'altro fronte dialettico per così dire, è quello che riguarda i migranti. Sentiamo. Rivedere il piano operativo di Triton in modo che i salvati non finiscano solo nei porti italiani, e questa è la richiesta che l'Italia porterà domani a partner europei a Varsavia, sede di Frontex. Il ministro dell'Interno Minniti chiede ufficialmente di modificare l'accordo che prevede l'obbligo per il nostro paese di occuparsi dei migranti anche se giunti con navi straniere. Quell'accordo sottoscritto 3 anni fa in tempi di emergenza diversa, quando i numeri dell'esodo erano più ridotti. Ora la situazione è diventata insostenibile: oltre 85.000 migranti approdati in Italia da inizio dell'anno, il 10% in più rispetto al 2016, un'emergenza che l'Italia non può più affrontare da sola. E dunque Roma minaccia in casi estremi di ritirarsi dalla missione, di non concedere più la disponibilità dei suoi porti. Ma la trattativa non sarà semplice. Aperture da Frontex e dagli altri paesi per adesso non arrivano, mentre sul fronte interno continua ad infuriare la polemica. Questa volta a intervenire Berlusconi. È stato un accordo firmato da Renzi e Alfano a consentire che tutti i migranti soccorsi in mare vengano sbarcati in Italia, dice il leader di Forza Italia. Spero che non sia stato il prezzo per una maggiore flessibilità sui conti che permettesse manovre elettorali ingannevoli. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Restiamo per chiudere la pagina politica, restiamo appunto sulla politica, in particolare sul Movimento 5 Stelle, che ieri ha incoronato Cancelleri come candidato alla carica di Presidente della Regione Siciliana, e il centrodestra invece che dopo il no secco di Marchionne alla ricerca di un leader. Il Movimento 5 Stelle punta sulla Sicilia per trovare slancio nella corsa verso Palazzo Chigi. Se vinciamo qui nel 2018 vinciamo anche le politiche, dice Beppe Grillo, che assieme a Davide Casaleggio ieri è intervenuto alla kermesse palermitana a sostegno di Giancarlo Cancelleri, il candidato governatore scelto dai pentastellati in vista del voto regionale in programma a novembre. A guardare alle politiche è anche il centrodestra, nel quale continua a tenere banco la questione della leadership. Dopo il no grazie, arrivato ieri da Sergio Marchionne, Silvio Berlusconi starebbe nuovamente pensando di candidare sua figlia Marina. Prima però il leader di Forza Italia dovrà vincere le resistenze di Salvini. Con il segretario della Lega per ora non sono in programma incontri, ma i pontieri di Forza Italia, da Toti alla Gelmini, sono al lavoro per cercare di favorire un loro riavvicinamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci sono dei dati interessanti che ha diffuso l'Istat questa mattina, riguardano il mondo delle casalinghe, quanto lavorano e quanto poco gli uomini condividono con loro i lavori di casa. Sentiamo. Casalinghe addio? Negli ultimi 10 anni le donne italiane, solo casa e famiglia, impegnate nei lavori domestici, sono diminuite di circa 500.000. Lo scorso anno, certifica l'Istat nel report le casalinghe in Italia, erano poco più di 7 milioni, età media 60 anni, vivono prevalentemente nel centro-sud, lavorano 49 ore a settimana e metà di loro non ha mai lavorato fuori casa. Il 74,5% possiede al massimo la licenza di scuola media inferiore. Le casalinghe più giovani, fino a 34 anni, sono meno di 1 su 10. La condizione economica non è buona per poco più di 700.000 casalinghe che vivono in povertà assoluta. Non hanno quindi un reddito sufficiente per una vita dignitosa. Solo il 35,3% si dichiara soddisfatta della propria vita. E l'uomo, rispetto a 10 anni fa, soprattutto se trentenne, è più casalingo. Cucina, fa la spesa, pulisce la casa e cura i figli. Ma lavare e stirare resta un compito esclusivamente femminile, anche quando la donna lavora. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo all'estero e andiamo a Londra, dove questa mattina c'è stato anche un allarme incendio a Westminster. Il palazzo è stato fatto evacuare, poi l'allarme è rientrato. Invece un incendio vero e proprio si è sviluppato a Camden Market. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Londra, che fino al mattino hanno lottato contro le fiamme divampate in un edificio del Camden Market. All'interno negozi, bancarelle e locali notturni. Il quartiere è una delle mete più popolari della capitale britannica. In azione sono dovuti entrare più di 70 vigili con 10 autopompe, soprattutto per evitare che le fiamme si propagassero agli edifici vicini, hanno spiegato. Ancora non sono chiare le ragioni dell'accaduto. Certo è però che 3 piani ed il tetto del palazzo sono andati distrutti. I danni sono ingenti, ma comunque contenuti a quell'edificio, e di feriti, per fortuna, non ce ne sono. Non è la prima volta che in quest'area commerciale divampano gravi incendi. Era già successo nel 2008 e nel 2014. Ma certo, in questo 2017, i nervi di tutti sono ancora scossi dal rogo della Grenfell Tower, con le sue innumerevoli vittime, tra le quali i 2 giovani architetti italiani, Gloria Trevisan e Marco Gottardi, il cui corpo è stato identificato soltanto ieri, a quasi un mese dall'incidente. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, innanzitutto per le dichiarazioni appena arrivate dal presidente americano Donald Trump, che di solito verso quest'ora si sveglia e twitta. L'ex direttore dell'FBI James Comey dice: Trump ha fatto trapelare informazioni secretate ai media. È una cosa assolutamente illegale, scrive Trump con un punto esclamativo. Pochi minuti prima Trump aveva ritwittato un messaggio della Fox and Friends nella quale si accusava appunto Comey di aver consegnato ad un amico informazioni top secret. E restiamo all'estero per parlare invece dell'Iraq. Ci sono ancora sacche di resistenza a Mosul, roccaforte irachena dell'ISIS, ma la città è sostanzialmente libera dal califfato. L'analisi è di Alberto Negri. In Iraq c'è sempre qualche cosa di volatile anche nelle vittorie epocali. Mosul è stata liberata dall'esercito iracheno appoggiato dagli Stati Uniti, ma nell'assedio sono state impegnate anche le milizie sciite, i pasdaran iraniani e gli Hezbollah, ovvero quelli che Washington, i sauditi e gli israeliani ritengono i loro peggiori avversari. Se gli Stati Uniti hanno fornito appoggio aereo e addestramento alle truppe irachene, gli iraniani continuano a essere la potenza straniera più influente a Baghdad, oltre a costituire insieme ai russi il puntello del regime di Assad in Siria. Nel momento in cui il califfato di al-Baghdadi viene sconfitto in Iraq, mentre americani e russi hanno appena raggiunto un accordo di tregua nel sud-ovest della Siria, non bisogna dimenticare le cause profonde che hanno portato all'affermazione dell'ISIS. La sua ascesa è stata determinata dagli errori del nemico, dall'emarginazione dei sunniti da parte del governo sciita iracheno, dal risentimento di quella parte di popolazione che si sente discriminata e senza difesa. Se l'Iraq non risolverà questo problema e continuerà con il settarismo, è forse inevitabile che nascerà una nuova entità per rimpiazzare lo Stato islamico o che i jihadisti troveranno nuovi modi per infiltrarsi nella società irachena, magari con il tipico trasformismo mediorientale. Così dunque Alberto Negri sulla vicenda di Mosul. Noi cambiamo decisamente argomento, andiamo verso la chiusura di questa prima parte della trasmissione e parliamo di sport. Abbiamo in studio con noi il nostro Dario Ricci per cercare di fare un riassunto per quanto possibile chiaramente, no, di questo fine settimana sportivo tra quattro ruote, due ruote, quelle non a motore naturalmente, parliamo del Tour de France. Corrono parecchio quelli, sì, sembrano dei motorini. Vanno veloci, però insomma parliamo di gambe che si muovono. Allora Dario, che fine settimana è stato? Vai. Ma guarda, ti faccio una piccola provocazione, segnati già invece sul calendario domenica prossima, perché abbiamo Gran Bretagna come fulcro dello sport mondiale, come spesso capita, Gran Premio di Silverstone e quindi occasione della rivincita per Hamilton, ieri superato da Vettel in Austria, no? È stato preceduto da Vettel nella gara comunque vinta da Bottas con questa splendida e discussa partenza. E poi domenica prossima c'è la finale del maschile di Wimbledon, e sì, oggi cominciano gli ottavi sia uomini che donne, quindi insomma proiettiamoci già in avanti. Avremo poi oggi invece il Tour riposa dopo le schermaglie di ieri. Sembra una sfida Aru contro Froome. C'è stata polemica per questo attacco frenato, no, di Aru da questo presunto problema tecnico da parte di Froome, che poi avrebbe risposto con una gomitata, e anche qua siamo in campo, sì, di Moviola, di VAR, per capire l'intenzionalità o meno di questa gomitata. Però il fatto che il campionissimo inglese abbia questi gesti di nervosismo vuol dire che il nostro sardo... È un buon segnale per Aru, forse. Sì, vuol dire che i nervi sono tesi, le scintille stanno per scoccare. Chiaro che Fabio deve far l'impresa, perché Frumma dalla sua parte anche le straordinarie performance a cronometro, però perché non sognare. Ultima domanda che ti faccio, Dario, abbiamo novità di mercato particolari per il calcio? Sì, direi occhi puntati sul Verona, sarà contento Sebastiano Barisoni, perché i gialloblu stanno mettendo in fila diversi colpi. Cerci, Cassano, Pazzini, sarà questo l'attacco del Verona per la prossima stagione in Serie A, perché l'ex Atletico Niente Madrid male. È già firmato. Fant'Antonio torna e torna anche a far coppia con quel Pazzini con cui, lo ricordiamo, aveva portato ai preliminari di Champions la Sampdoria nel 2010. Allora, grazie al nostro Dario Ricci per questo punto sul fine settimana sportivo. Noi adesso, ovviamente di sport si tornerà a parlare in tutti i convocati a partire dalle 14. Prima di chiudere, parliamo dei siti italiani iscritti nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, che salgono, come ormai saprete, a 53 dopo il riconoscimento attribuito ieri a 10 faggete secolari che si estendono dalla Toscana alla Calabria e coprono una superficie complessiva di oltre 2000 ettari, e alle opere difensive veneziane presenti a Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova. La soddisfazione del sindaco di Palmanova, Francesco Martinez, al microfono di Adriana Fracchia. Il riconoscimento UNESCO ci mette su un parterre mondiale. Se noi pensiamo che il 3-4% della popolazione mondiale che fa turismo va a visitare città UNESCO, città riconosciute patrimonio mondiale dell'umanità, più ci mette in rete con le altre città UNESCO di questa regione, che sono Cividale e Aquileia, che sono vicine a noi, e questo poi ci permette anche di essere riconosciuti, essere più visibili, creare economia per la città, ma trovare anche risorse finanziarie a livello regionale e nazionale ed europeo per conservare e valorizzare la città. qua fino a 25 anni fa, fino al 95 c'erano 5.000 abitanti e 5.000 militari, quindi nessuno si preoccupava di pensare a un futuro diverso. Adesso ci cominciamo a pensare e sicuramente l'essere inseriti nel patrimonio mondiale dell'umanità certamente ci aiuterà a mettere in piedi delle politiche turistiche, facendo sistema con la regione, facendo sistema con le altre città riconosciute in questo percorso che è stato riconosciuto ieri, che sono le opere di difesa veneziane, perché questo ci permette chiaramente di allargare la nostra visibilità e quindi portare più turisti a Palma Nova e dare a Palma Nova quindi un futuro diverso. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Beh, in una giornata come oggi non avremmo potuto che iniziare da Chioggia e dalla vicenda dello stabilimento balneare di proprietà o quantomeno in concessione a questo signor Gianni Scarpa, detto il Pirata, pieno di cartelli dei quali inneggianti al fascismo, dei quali il prefetto ha ordinato questa mattina la rimozione. Ne parleremo col vice sindaco per darvi l'idea del personaggio Gianni Scarpa. Questo è un passaggio di un'intervista che aveva rilasciato a una TV veneta locale, in particolare Rete Veneta. Andiamo a sentirlo, poi il traffico, ci troviamo subito dopo. Io essendo di una linea politica che ormai non c'è più e non mi vergogno a dirla qual è, il manganello. Io sono negro, nero come il carbone, io sono fascista, forse questa la taglierai, ma è quello che sono, condanno il vecchio fascismo, però adesso ci vorrebbe il nuovo, il manganello, e spazzare via tutta la merda che ci sovrasta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della sfida con l'Europa su migranti e fiscal compact, del DDL per punire chi vende gadget fascisti e fa propaganda in rete, sul quale scontro tra Movimento 5 Stelle e PD, delle fiamme a Camden Market di Mosule. Abbiamo parlato dei dati dell'Istat sulle casalinghe che lavorano più degli occupati, 49 ore a settimana. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e, come si diceva, iniziamo da Chioggia, dove che è un po' al centro delle polemiche in queste ore, come sapete, per quello stabilimento balneare nel quale ci sono motti fascisti, si rimanda al Duce e via dicendo, e dove tra l'altro ogni giorno o quasi ogni giorno il proprietario, o meglio la persona che ha la concessione per questo stabilimento balneare, concionava dal microfono. Sentiamo un passaggio. Sono molto contento di avere una clientela esemplare, guardatevi in giro, oggi siete i 650, non c'è una cica, non c'è una salvietta, non c'è niente che non vada bene a terra. A me la gente maleducata mi fa schifo, a me la gente sporca mi fa schifo, a me la democrazia mi fa schifo. Io sono totalmente antidemocratico. Ed eccoci qua, a me la democrazia fa schifo. Marco Veronese, assessore al demanio, vice sindaco di Chioggia, buongiorno, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Eccoci qua. Senta, in realtà la vicenda di questo stabilimento ritirata fuori nel fine settimana dalla Repubblica era cosa piuttosto nota. Insomma, io sono andato a vedere su TripAdvisor, c'è una recensione dell'8 agosto 2016 che ha un solo pallino su 5, nel quale una persona dice: ho passato una giornata su questa spiaggia ma credo che non tornerò mai più, cartelli con motti che sembra di stare in tangenziale, mega pannello inneggiante al Duce, perfino apprendo falli di legno vicino alle docce e sproloqui al microfono inappropriati e rozzi. Non vi era mai stata segnalata questa cosa? Immagino che la conosceste perché lei è di Chioggia, no? Sì, sono di Chioggia, ma non è stata mai segnalata questi fatti, non sono mai stati segnalati. E non ne sapeva niente lei? Sapevamo che c'era veniva selezionato un certo tipo di clientela, preferivano magari più giovani ai bambini, però non di questo tipo di atti non abbiamo mai saputo niente. Nessuno c'è mai entrato in questo stabilimento? Nessuno della giunta, del consiglio comunale? Nessuno? Io non lo so, neanche io non sono mai entrato. Lei non c'è mai entrato? Stabilimento, no. Ma ci sarebbe stato modo di provvedere al di là dell'ordinanza arrivata oggi dal prefetto? se non abbiamo avuto notizie in merito a questi atti, noi non abbiamo provveduto a niente, cioè noi dobbiamo solo controllare dal punto di vista amministrativo, la concessione era regolare, quindi non abbiamo fatto nessuna azione. E potete revocare la concessione a questa persona oppure no, sulla base di questi fatti? No, i provvedimenti sanzionatori sono a carico della prefettura, della questura. Quando arriveranno questi provvedimenti noi ne prenderemo atto. Ma la concessione dipende da voi, siete voi che fate la concessione? Sì, le concessioni è demanio marittimo e quindi le concessioni vengono rilasciate dal comune. E quindi teoricamente potreste anche revocarglielo, se, cioè potrebbe essere una scelta politica, potreste decidere politicamente di revocare questa concessione. Reati, ci devono essere dei reati, i reati li stabilisce la prefettura e dopo noi agiamo in base al nostro regolamento. E se è apologia di fascismo, c'è l'apologia di fascismo e quindi potreste farlo. Sempre se la prefettura ci invierà una comunicazione dove viene confermato questo reato. Quindi dipende tutto dalla prefettura? Cioè voi non avete intenzione di fare alcuna azione politica da questo punto di vista, vice sindaco? Azioni politiche, noi condanniamo quello che è stato fatto, però il lato amministrativo è una cosa, la condanna politica, la posizione politica della giunta, del consiglio comunale è logicamente contro questo tipo di reati e contro questi comportamenti. E c'è condanna politica per questo? Condanna politica, sicuramente. Infatti ho letto anche sull'ANSA che io ho detto che non si tratta di, cioè no, che non ho condannato questo tipo di atti, ma non è assolutamente vero. Condanniamo assolutamente questo tipo di comportamento. La ringrazio, grazie Marco Veronese, assessore al demanio e vice sindaco di Chioggia. E noi da Chioggia ci spostiamo a Milano e torna da noi Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del comune. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a voi, grazie. Questo periodo la ospitiamo spesso, so che è stata da Giuseppe Cruciani la settimana scorsa per parlare della vicenda dei biglietti. Non torniamo sulla vicenda dei biglietti, invece torniamo su quello che è successo in questi due giorni nel capoluogo lombardo. Ci sono due vicende, ovviamente entrambe molto diverse, per carità, che però riportano ad una serie di problemi. Il primo è quello che è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella zona di Corso Como, dove 50 persone, a quanto pare, secondo quanto quelli che sono i racconti, hanno aggredito due ragazzi africani che poi sono stati salvati dalla polizia, accusandoli appunto di essere i responsabili di una serie di furti che effettivamente avvengono in zona, furti, scippi e anche spaccio di droga. Corso Como, lo diciamo per gli ascoltatori che non sono di Milano, è in una zona molto centrale della città, è un luogo di quelli classici, per usare un'espressione, una parola che io non amo molto, della movida, insomma, ma storicamente. Come giudica questo episodio, Rozza, e che problema c'è là in zona? No, lì in zona già dallo scorso anno c'era stato segnalato una massiccia presenza di persone, di spacciatori di origine nigeriana che vendevano in maniera anche aggressiva le loro mercanzie ai turisti o a chi frequentava la zona. Poi c'è stata segnalata anche una recrudescenza con i furti verso le 4 del mattino e lì infatti c'è un servizio in borghese molto forte. Confermo, Rozza, perché la collega Laura Faggin, che è quella che poi cura la trasmissione, l'altro giorno è stata, la settimana scorsa, non so, è stata approcciata a Corso Como da qualcuno che voleva venderle la droga con il bambino, cioè lei era col bambino, con la carrozzina, e questo si è avvicinato e le ha detto. E abbiamo intrapreso una strada interforze con presenze tutte le notti di personale in borghese e principalmente con servizi di polizia di Stato e carabinieri che hanno portato a una marea di arresti, all'identificazione di 120 persone, con l'episodio di quella notte che per favore sono arrivate, perché chiaramente la situazione diventa complicata, su cui è intervenuta di nuovo Polizia di Stato e Carabinieri. È una zona che abbiamo ben presente, che costantemente viene pattugliata. Sicuramente il problema non lo risolviamo con la bacchetta magica, c'è anche il tema che spesso arresti piccoli pusherini con modeste quantità di droga e vengono rimessi in circolo certo. quasi subito. Sei costretto a liberarli proprio perché hanno delle modeste quantità. Ah, lo dico per esatto. ci fossero forze dell'ordine in ascolto, Laura Faggin non l'ha comprata poi, cioè, no, giusto per chiarezza. La vorrei portare su un'altra sì. questione, un'altra vicenda, tutt'altra vicenda e tutt'altro luogo. Siamo nella zona del Giambellino, se non erro, dove ieri un ragazzo italiano di origine egiziana, nel senso che i due genitori sono egiziani, ma lui è nato e cresciuto in Italia, è stato ucciso da un uomo di 50 anni di origine marocchina durante una specie di, in realtà nemmeno proprio una rissa, nel senso che lui pare che l'abbia urtato col gomito, questo si è innervosito, ha preso il cacciavite e, scusate la brutalità, gliel'ha infilato nel cuore con due colpi. Poi c'è stato un tentativo di linciaggio di quest'uomo. Il punto, Rozza, è questo: abbiamo appreso che quest'uomo ha avuto un permesso di soggiorno fino al 2014, aveva una serie di precedenti penali e poi, insomma, sono passati 3 anni da quando il permesso di soggiorno gli è scaduto ed era ancora qua, uno con precedenti penali. È un problema anche questo, no? Un problema di controllo del territorio, non riguarda specificatamente voi, più la prefettura, la questura, sicuramente lo Stato centrale, però voglio dire, è un problema. No, c'è questo un problema serio delle persone che non hanno più diritto, hanno perso i diritti per rimanere nel nostro paese e che continuano a circolare perché gli è stato dato un foglio di via, ma non sono stati accompagnati al loro paese. Posso dire che dopo il decreto Minniti e col ministro Minniti le espulsioni con accompagnamento al paese di origine sono triplicate. Siamo ben oltre in questi 6 mesi ai 200. E anche la scelta del ministro Minniti e del governo di costituire i centri per i rimpatri serve proprio per, identificando queste persone pericolose, metterle in questi centri in attesa dell'organizzazione del viaggio, che io ritengo assolutamente doveroso. E il controllo del territorio congiunto con le altre forze dell'ordine serve anche a individuare, perché i vigili non hanno l'accesso ai dati sì. rispetto alla storia di ogni singola persona. Io ti chiedo un documento, tu me lo dai, ma non so chi sei. Mentre polizia e carabinieri hanno l'accesso all'USTI, e cioè alla database della storia di ognuno di noi, e quindi possono individuare. Sì. E devo dire che in questi ultimi 6 mesi il controllo del territorio fatto in accordo con la Polizia di Stato e i carabinieri ci sta portando a rimpatriare parecchia gente. Purtroppo lì siamo arrivati in tempo. La ringrazio. Grazie Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. E poi non so se abbiamo il tempo, perché la puntata del lunedì, come sapete, è sempre un po' più corta. Volevamo parlare un po' delle ordinanze estive che stanno varando i sindaci. C'è quella di Roma che impedisce la vendita degli alcolici a partire dalle 24, ma vale per tutti i municipi tranne uno. E pare che la gente si raccolga in questo municipio per andare a bere dopo la mezzanotte. Tra un attimo vedremo se avremo lo spazio e il modo di parlarne. A tra poco. Effetto giorno. Lo scontro sul DDL per chi vende gadget fascisti e fa propaganda in rete. 5 Stelle contrarie. Intanto Salvini invoca la cancellazione della legge Mancino. Una notizia di pochi istanti fa: è stata danneggiata la statua di Giovanni Falcone, che si trova davanti alla scuola Falcone Borsellino a Palermo. Alla statua è stata staccata la testa e un pezzo del busto e poi usati come ariete contro il muro dell'istituto scolastico. Sfida con l'Europa su migranti e fiscal compact. Minniti prepara un nuovo piano. Renzi vuole deficit al 2,9% per 5 anni. A Londra fiamme a Camden Market, molti danni e nessun ferito. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Piccola precisazione per Emanuele, che ci scrive al 349-238-6666 e dice: nemmeno l'hanno approvato, lo Ius Soli è già un egiziano nato in Italia, considerato italiano da Radio 24. Stiamo parlando di Roberto Farok Samir Halimi, ucciso a 18 anni ieri da un cinquantenne marocchino. lo Iussori non c'entra niente, ma Roberto Farok Samir Halimi era un cittadino italiano a tutti gli effetti e come tale abbiamo riferito che era, punto e basta, e non c'entra niente lo Iussori. E poi una risposta all'ascoltatore che ci scrive: ma secondo voi il foglio di via a cosa serve? Per come è strutturato adesso il foglio di via serve veramente a poco. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.